sempre, sempre qua sogno, sempre qua, in attesa che mi chiamino a mangiare, se ce n'è. Lasciala giocare, sono russo, no? Sì, arrivo. Vado a mangiare, ci sentiamo dopo, cosa diciamo? Scatole paghiamo 5 euro solo il trasporto. quella maniera là, dai. Shopping, no, benissimo. La mia messa un pochino più alta qua nella camera della radio. Poi ho comprato un pacco da 6 di Attac, che non si chiama Attac ma vuole all'Attac, 1,50€, 6 tubetti. Tanto solo un tubetto costa 3 euro. 6 tubetti, 1,50€. E poi ci abbiamo fatto un paio di cuffie col microfono, molto belle. E mi ha tolto la spugnettina dal microfonino, intanto non mi serve, e l'ho messa nell'M600, perché intanto non l'ho provato. Quando accendo li compro. mezzo di risolta all'incontro. Io funziono, non c'è problema. Un coso c'è una scatola da un video di mezzo che sta attuando di comparecchio una. Risolta. Voglio stare provando le comparazioni, se non so come manco un altro messaggio di sta roba. No, per il posto che è, ti dico che io in quello di via del Porto se non ce l'ho mai andato. Non è antemano, grandissimo, tu, grandissimo. Lo so, ci sono andato pure io. Come si chiama? Adesso non mi ricordo. Shopping è praticamente via del Porto, c'è prima della Mercedes, capito? Prima della Mercedes, la Peugeot, dove c'è il legno, là, è lì. Ecco, è più shopping, cioè sono entrato già. Invece che altro dove c'è roba, vai. Sì, intanto. No, io manco la partita, sto guardando. Niente, aspetto tutto. E basta, c'ho alcune valli accese che mi interessano, se non fa troppo caldo, sento un pochino di aria, già va bene. Schierare Giovinco, Cassano, poi non me ne ricordo che cavolo dovrebbe schierare, Montolivo mi sembra, Ferocci, Fatto come si cavolo si chiama, per un nome, adesso me ne ricordo tutto. Casino, capito? Dovrebbero smettere di fare queste stronzate. lo sospendiamo il calcio per 2 anni, senza essere pagati i giocatori. Vediamo se le passano Marchini, in ogni caso. E oppure vuoi giocare? Non so, niente di meglio. Niente di niente, la faccio che farà gloria, hanno sempre altri, la faccio una cosa, vai a piacere, vai. Tanto con tutti i miliardi che prendono, cazzo, ma con tutti i miliardi che prendono, hanno necessità di fare questo tipo di cosa, boh, calcio scommesse, ma roba da matti. Roba da matti, cioè il calcio sta andando veramente a schifio. Capito? Sta andando veramente a schifio. È una cosa allucinante. Poi in concomitanza con gli europei, tra un po' ci sono i mondiali. Ecco, questo non ci voleva, capito? Perché sono tutti giocatori della nazionale, quelli coinvolti sono tutti giocatori della nazionale, quindi è un casino totale, boh, vabbè. Speriamo che ne escano meno vincenti da questo casino, perché le squadre che ci sono forti, sono tutte nazionali italiane, cioè nazionali estere, quindi bisogna combattere forte, giocare forte. Come l'altra volta, ma guarda, è meglio già fare la partita, come la mischia vuole dell'altro giorno. Questo che schifo, che tu hai visto, per carità di Dio. Sotto 3 gol secchi, una dovrebbe all'altro, questa difesa a farfalle, le fasce che si guardavano uno con l'altro, non capisco. È proprio lì, in un amichevole, che devi far vedere il carattere, devi far vedere che veramente sei preparato per affrontare un europeo, perché dice sciocagliati, proprio ora è una squadra di caratteri. Ma c'è qualcosa che non ha funzionato bene, secondo me. Se tu piace il calcio con me, ma vaffanculo, ma non posso anche fare queste cose. Non fare le persone oneste, cosa te ne frega se te lo cazzo scommette, tu guadagni il tuo, guadagni, fai il cazzo onesto per tutti, e certo va a far culo, ma se vinco, cioè, meglio merito, è un buon merito, ma non c'è bisogno di fare queste cose, perlomeno io la penso così. Tu la pensi così o la penso come te vuoi? È assurdo una cosa del genere, ma ho sentito, sono rimasto sbalordito, cioè poi persone come quelle, capito? Persone come quelle a coinvolgerne altre ancora meglio, perché ci sono presidenti anche in mezzo, di squadre grosse, di squadre molto interessanti. E quindi essere coinvolti in una cosa del genere, che ripeto, all'inizio di un campionato europeo, è una cosa vergognosa per la nazionale italiana, perché sono tutti, erano quasi, cioè quelli che hanno arrestato erano convocati in nazionale italiana, sono andati a Coverciano a prenderli, capito? Quindi che è una vergogna totale, per le altre nazioni è una vergogna totale. Ma sai che il problema è questo, che noi siamo in Italia, le altre nazioni sono nel loro paese, magari qua in Italia queste cose le guardano, queste legalità, e negli altri paesi che lo sappiamo come sono, non frega niente a nessuno, è capito? E secondo me le cose stesse ci sono anche se vanno a indagare, mamma mia bella, meglio niente, siamo preso spesso di come ci siamo inoltre, qua le cose si sanno. Ci sanno perché devo sapere come è fatto l'italiano, tutto cantano, manette e cose, però negli altri paesi fanno i capo di loro, che non so così, Ma guarda che quanto hanno detto, tanto pare che siano coinvolti anche altre nazionali estere, capito, giocatori di altre nazionali, soprattutto quelle che devono fare gli europei. Però vedi, di lì se ne parla di meno, come hai detto tu. Tanto da noi subito tutto il mondo sa. convenutissimo e inopportunissimo che qua vengono scoperti e succede uno scandalo, succede un gallino nero. No, lo fanno e si fanno i capoli loro, lo fanno e basta. Perché magari anche le leggi, la giustizia è diversa, lo sai come. E no, che cazzo, fai un trudio e subito insomma cazzo. Magari di quello che si devono occupare non si occupano. Di tutto e di più, più. Sempre di tutto e di più. Di più. Di Sandro Trie. È così Sandro. Se stavi ascoltando è così. Ho capito. Cioè quello che fanno all'estero, noi a volte non lo sappiamo. Quello che fanno qua in Italia, all'estero lo sanno subito perché. Allora sono i giornalisti italiani che sono dei pezzi di merda. Ehi, calma, calma. Ciao Claudio, Paolo. Salutone lì anche a Antonio, mi sembra, correggetemi perché io sempre mi confondo. Claudio, Claudio, è una beffa, lasciamo perdere, dai. Io stasera stavo un attimino a facendo una cosetta, così ho girato sul primo, ho visto, mi sembra che c'era la Polonia con la Grecia, mi sembra che cosa, cosa. E ho guardato un attimino, un pochettino, dai, su che ormai stiamo arrivando agli estremi, quindi. Cioè, visto com'è la situazione? Alla fin fine si è arrivato proprio alla brutta, capito? Sì, c'è Antonio Bombolo. L'altro che tu hai confuso è Giuseppe Leoncino, non è Bombolo. Ah, intanto vediamo se ti ascolta Sandrino Bertotto Torres. No, è Busto Torra, mi senti? Anto, trova una soluzione, ti ascolto Pio. E considera che sono anche, diciamo, in cuffia, quindi riesco a tirarti fuori con le pinze. Comunque buonasera. Sera. Buonasera, non posso fare di più stasera, Stasera non posso fare di più. Beh, ho capito, dai. Diciamo che sei un po' limitato. Va bene. Capito Claudio, ormai siamo arrivati alla frutta, dai, su, ci vuole un po' di rigore, un po' di freno, cazzo, sta gente prende, a parte che siano professionisti, quello che vuoi, però dai, dai, ci vuole anche un po' di rigore, un po' di freno, freno. Ma infatti, già, come diceva Antonio, cioè non tutti i miliardi che prendono, perché il calcio è quello più pagato al mondo. Ti permetti anche di fare caccia scommesse, quindi recuperare altri soldi in nero, coinvolgendo persone che magari non c'entrano niente, quindi truffando la tua stessa società e poi ti lamenti, perché veramente quello che è successo hanno fatto male tutto il mondo, cioè è assurdo che la nazionale italiana in una settimana prima, 15 giorni prima degli europei, faccia eruzione a Coverciano in ritiro la polizia italiana per arrestare dei calciatori. È una vergogna totale, cazzo, cioè non è una cosa che si può vedere tutti i giorni, è una vera vergogna, non è tutto. Quindi dico, se già sei strappagato, stai benissimo, non hai nessun problema, perché ti metti a fare queste trattate, a quale titolo, per far vedere che cosa, per coinvolgere società fasulle a far sì che le partite vengano truccate, altre motivazioni non ce ne sono, capito? Perché se è vero quello che hanno detto, che la partita del Siena era truccata, è coinvolto anche l'allenatore della Juventus, che a quell'epoca era l'allenatore del Siena, quindi cioè non va bene adesso alcuni giorni fa, se non sbaglio, allora aspetta un attimino, perché mi sta dando fastidio anche a me in cuffie. Ok, sta dando fastidio anche a me in cuffie. Vediamo un po'. Ok, allora, non so se alcuni giorni fa o che cosa, non so se sia stato Monti o Napolitano, diciamo a chi cosa penalizzare almeno per un anno o due anni dal calcio. E guarda, non la vedo neanche sbagliata come presa di posizione, almeno giusto per far riflettere, diciamo che un attimino questo inghippo. Facciamo rispondere Antonio, vediamo cosa ne pensa. Io dico solo che, Sandro, il problema sussiste già da tantissimo tempo, no? Perché è vero che ai tempi di Moggi, come direttore generale della Juventus, ce ne sono successe di tutti i colori, va bene. È stato punito, è stato irradiato dal calcio italiano. Per me va bene, sono juventino, va bene così, perché sono le punizioni che la gente merita, quelli belli. Però è vero anche che quello che è stato, o che è successo adesso, succedeva già nel passato, quindi ai tempi di Moggi e prima dei tempi di Moggi. Quindi se una cosa doveva essere presa in, come visione o come punizione per tutti, doveva essere fatta già a suo tempo, non adesso. Adesso che stanno iniziando a rettare i calciatori, prima non facevano niente, capito? Prima non hanno mai fatto niente, solo a Muggi hanno pulito, no? E a Moratti, a Galliani, cioè l'allenatore della Fiorentina, va benissimo, il Parigi, proprio dalla faccia della terra, fa la fine di Craxi, capito? Perché lo sa che se lui viene in Italia è morto, caput, vai a tu. Come la penso io, allora è successo questo fatto grosso, cosa. Io direi di mettere le cose a posto, di chiudere il capitolo. Qualsiasi cosa che succeda, chi cavolo fa tutte queste porcherie, cosa, passa pigliato, espulso senza mezzi termini, espulso, cacciato via dalla squadra e anche non fatto mai più esercitare da fare il calciatore, l'allenatore, chiunque sia, e poi anche una bella denuncia penale, cosa, e fate passare tutta la voglia di fare queste cazzate. Secondo me mettere proprio una legge che uno non deve escludere la squadra, cioè togliere la squadra di calcio. Uno chi sono i responsabili, a calci di culo e via, tolto il tesserino, tolto tutto quanto, tu non mi fai più nulla ai nostri, vattene via e passa così, è finita la tua carriera. È quello che bisogna veramente fare, secondo il mio punto di vista, bisogna pigliare gli individui e mandarli via a calci del culo, via, fuori, non serve a fare niente qua. E non so se l'ultimo stipendio pigliato e pagato penali per quello che ha fatto, cioè proprio cose grosse. Allora come era passato Roma? Le mani di cose. Vai Sandro. Ok. Ehi Anto, purtroppo non è così. Purtroppo Anto non è così, magari fosse così, giusto per regolarizzare un attimino il discorso del calcio, ma purtroppo c'è un business che prende a gola non indifferente, diciamo, a tutto il campo del calcio. Allora, rendetevi conto che Lippi, il signor Lippi, ce lo conosciamo benissimo, diciamo che lui è arrivato a un certo livello, un signor allenatore, ha allenato, diciamo, varie squadre di un certo livello, campionati diciamo mondiali, campionati europei. Oggi Lippi è in Cina, ascese. Il signor Lippi guadagna la bellezza di 10 milioni di euro all'anno. E non stiamo parlando di nocciolini, capito? Non parliamo di noccioline. 10 milioni di euro all'anno. Ma ci rendiamo conto che cos'è? Che ormai diciamo è un professionista riconosciuto, diciamo, e così via. Ma sto 10 milioni di euro all'anno, mi occra. Esperti diciamo in campo fatto e quant'altro, però ma ci rendiamo conto, 8.000 euro all'anno, eh? Un giocatore professionista all'anno quanti milioni prende? Quindi tutta questa differenza, andiamo a vederla. E non è il problema secondo te, è un problema di fondo allora, lo ragiono io. Cioè, è normale che lo... è un problema di fondo, è normale, dai, c'è un business che non finisce mai, dai, è ora di farla finita. Logicamente il calcio sta andando avanti perché ci sono i tifosi, i campi di calcio sono sempre pieni, quindi vanno avanti alla grande, capito? Ci sono i vari iscritti, delle varie squadre italiane e così via, quindi i campi sportivi sono ancora abbastanza affollati. Invece diciamo l'italiano se ne diciamo di andare nei campi sportivi a guardare la partita, la guarderebbe soltanto in televisione, allora vedreste che un attimino si farebbero un giro di conti, ma purtroppo questo non esiste, ma non per cattiveria, per carità, ma giusto per far capire, tu sei un professionista, guadagni una barca di soldi all'anno, e allora fai lo maestro in campo. È un problema, non lo so Sandro, è un problema che molti si chiedono, però non è facile risolverlo, capito? Non è facile risolverlo, perché secondo me anche se tu ti metti a fare pulizia o cose del genere, nel senso pulizia a livello amministrativo, a livello di cassa, c'è sempre qualcuno che ti impone di non farlo, ma ti impone di non farlo per un semplice motivo, che altrimenti neanche lui ci mangia. Ormai il calcio italiano è un business, capito? È un business dove ci guadagnano tutti stanno bene, tutti stanno in silenzio e tutti pretendono che si continui a fare sempre la stessa cosa, perché altrimenti non ci sarebbe giro di denaro. Questo è quello che penso io. Se no sarebbe troppo facile. Il Presidente della Lega dice, beh, da oggi basta, ok, da oggi deve funzionare così. Se funziona diversamente da come dico io, fermiamo le partite. Ci hanno provato, se ti ricordi, a fermare il calcio per tre giornate, ne parlo due giornate. Cosa hanno risolto? Niente. Nel modo più assoluto, hanno costretto alcune squadre, quando fu, di giocare a porte chiuse e c'è stato un casino totale, da parte dei sindaci, da parte di tutte le amministrazioni, perché? Perché non c'è guadagno, non c'è incasso, capito? I campi, ci sarà sicuramente una percentuale anche ai comuni del campo di gioco. Quindi non si incassa, si gioca a porte chiuse, non c'è business, non c'è denaro che gira. È chiaro che non puoi fare determinate cose. Sei costretto ad andare avanti così in silenzio, anche cercando coperture, cercando di far sì che non ci siano fughe di notizie. Però le fughe di notizie a quanto pare ci sono sempre. Perché come ho detto prima, lo ribadisco adesso, noi in Italia abbiamo dei giornalisti che sono degli imbecilli, capito? Perché se la notizia c'è, la tieni riservata, non che in 24 ore tutto il mondo sapeva che, perché se tu andavi a vedere Rai News, ne ha parlato subito, dopo due ore che è successo il casino di Coverciano, praticamente tutto il mondo sapeva che la polizia aveva arrestato i calciatori italiani per le calcio scommesse. Certo, a una settimana dagli europei è possibile. Vai lì, stanno facendo cose illegali per intercettare il GAP del gatto, ma le apparecchiature, l'intercettazione di grandi giornalisti professionisti, come ti devo chiamare, che non credo che ne sanno le cose. Stanno facendo cose illegali pure, non tra l'altro non si può fare. Tutto fa notizia e cose. Poi, per carità, guarda, non lo sapevi perché servono quegli strumenti lì. Senti, dimmi, a certe persone si fanno proprio ad ascoltarle. Sì, io non vado ad ascoltarle. È una cosa, sei convinto che vivono i giornalisti italiani. Dai telegiornali che tu vedi che sono lì a raccontare notizie del terremoto, non credo proprio. Vivono moltissimo, poi dicevano, guarda, io ho conosciuto molti anni fa a Cesare Castellotti, proprio di persona, ti parlo di tantissimi anni fa, sono andato a vedere Juventus Genova allora, e l'ho conosciuto perché ero proprio lì nella ero seduto di fronte a dove c'era la cabina stampa, diciamo, da dove facevano la cronaca in diretta. E l'ho conosciuto, insomma, perché gli ho fatto le domande, è stato molto gentile, l'ho conosciuto. E in quelle domande che io allora, ma ero ragazzo, mi rispose proprio che se non ci fossero i giornalisti che raccontassero la partita, noi italiani alla TV che cosa guardiamo? La gente corre. Cosa ambiglia un giornalista di cronaca in cronaca diretta in campionato di Serie A? Non hai idea, Duanto, non hai idea. In 90 minuti quando prende un giornalista per fare la telecronaca di calcio. Forse ci vuole un anno del mio stipendio. In 90 minuti mi. Ma allora dico, cazzo, ma quando mai siamo arrivati a questo punto? Quando mai siamo arrivati a questo punto? C'è quella una speculazione di denaro pubblico, mi ha detto. Speculazione di denaro pubblico, capito? Tu sei un dipendente della RAI, perfetto. Allora prendi lo stipendio come lo prendo io da lavoratore. Non che tu in 90 minuti, cazzo, devi prendere una barca di soldi perché stai facendo la telecronaca, sei in missione per fare una telecronaca diretta di calcio. È una speculazione di denaro pubblico, capito? Vai, Sandro. Sì, ok, dai, vabbè. Oi, per carità, guarda, lo so, hai toccato un altro tasto volente, hai toccato, dai. Purtroppo è un gran casino, guarda, è un gran casino, ma io delle volte mi domando e dico, adesso semplice operaio che si fa la sua giornata, ok, allora Claudio fa parte di una multinazionale, ok, Claudio non esegue il lavoro che deve essere eseguito giornalmente. Claudio logicamente verrà, diciamo, ripreso. Claudio si deve tenere il posto di lavoro, deve eseguire, diciamo, il suo compito. Ma allora mi domando e dico, ma perché questo non succede anche nel business del calcio? Tu mi dirai, lì è tutto un altro business, non è a livelli di operaio come potrebbe essere un dipendente, potrebbe essere Claudio, potrebbe essere Pico Pallino, per svolgere il suo classico lavoro normale, non ci possiamo competere perché è tutto un altro business, è tutto un altro giro. E vabbè dai, comunque, andiamo avanti. Hai compreso tu come funziona? Non ti dico che cosa mi ha risposto, eh. Non ti dico che cosa mi ha perché le partite stanno andando alla RAI a livello europeo. Voi immaginatevi solo, io parlo del 1980, sono rimasto scioccato per 90 minuti, che cosa può prendere oggi un giornalista, di un giornalista sportivo che va a fare la telecronaca di Serie A in 90 minuti. Allucinante, credetemi, allucinante. Quindi, cazzo, dove vai a lamentarti che a me mi devi togliere il pane di bocca facendomi fare il culo dalla mattina alla sera, tassandomi anche le mutande, e tu, cazzo, per 90 minuti prendi quanto è me, che per me ci vuole un anno, forse due anni a prenderlo oggi, prima magari ci voleva un anno, oggi forse ce ne vogliono due o tre di anni per raggiungere quella cifra che tu stai guadagnando in 90 minuti. Allucinante. Vai a tu. Già me lo posso immaginare che ci fa prendere. Ma stiamo scherzando, cazzo, che uno sta facendo il giro la mattina alla sera, non è che a malapena magari si riesce a farci un pezzo di casa, allora fa il culo, vai. Io non pretendo tanto, ma almeno cazzo per il figlio di stare bene, stare bene, con uno stipendio solo in casa di stare bene, di non avere problemi, di niente. Invece no, cazzo, uno fa tanti sacrifici e da voi cazzo fate fatica a campare. Ma questa vita è mandi di lusiganza, mandi di culo, vai. Questo proprio fa bene, fa bene. Vai, Sandro, vai. Sì, ok, dai. Va bene, dai. Signori, io mi approfitto, vi saluto perché qua mi sto schiumando io. Mi so che ci viene, cazzo, non c'è quasi un filo d'aria qua. Oh, Labo, dai. Tanto ti stanno sovramodulando qualche modulazione spagnola, dai. E vabbè, comunque. Tiriamo avanti, dai, nel nostro piccolo tiriamo avanti, a noi si tocca studare camellà, se ce ne vogliamo zappare. Da voi il business, il grande calcio e studi a valanghe, lasciamoglieli fare, tutto lì. Ciao Claudio, ci sentiamo alle prossime. Ciao Anto, anche a te, dai, alle prossime. E bene, qua. Aspetta Andri, che ti devo dire una cosa che poi mi dimentico. Hai presente quei lampadari con le pale, tu che giri soprattutto sai dove, no? Anche su Olbia, su Sassari, eccetera, nei cusi commerciali grandi, perché lo devo prendere, ma mi sono spaventato, perché 120 euro. Qua a Sassari l'ho visto, da mettere qua in cameretta, così riesce anche magari quando le radio sono calde eccetera, mi piace, però quello, non quello a pale in ferro brutto, mi piacerebbe quello con le pale in legno sul marroncino, che è adeguato anche all'habitat di questo shack. Vedi un pochino, sa, se ti viene bene, di vedere quanto costa, perché mi ha detto l'aria che sicuramente a Olbia costa molto, molto meno. Hai capito qual è? La pala, quella che gira, poi c'ha le catenelle per accendere e spegnere la luce, e una per la velocità della pala, ma io la lascio sempre ad una velocità costante quando fa molto caldo e basta. Me la fai per cortesia? Sì, ho capito quello che intendi tu, dai, io l'ho già presa qui da me, l'ho messa in cucina, e quella classica, diciamo, tipo legno, non è proprio legno, dai, è un qualcosa di plastificato, però è strassomiglia, diciamo, al legno, quello marroncino. Sì, che c'è la boccia bianca della lampadina, poi c'è la famosa catenella. Sì, e allora io l'ho presa, dove l'ho presa? Io l'ho presa giù a Cagliari, però ti spiego, questa che ho preso io c'è il termometro. Allora, in effetti tu la programmi. piccolo termometro, quando lei rileva, diciamo, una certa temperatura, è tutto incorporato, diciamo, sto blocco, diciamo, delle palle lì, dove alimenta, diciamo, la scatoletta che alimenta per accendere e spegnere la luce sulla catenella, dice, questa specie di termometro, qui tu lo programmi per dire una certa umidità, un certo calore, tutto quanto si parte e partono le palle. E mi sembra che quella l'avevo presa giù a Sisto, visto nello centro commerciale, come si chiama lì, quello, cioè, alle vele, mi sembra, alle vele. E mi sembra che costava intorno alle 60-70 euro, se non sbaglio, quelle stazione della vortice, che mi sembra che vanno a 12, ci sono quelle che fanno anche a 12 volt, leggere leggere, non sono rumorose né niente, solo che sono da intaccare il vetro, incassarle dentro, ti prendono l'aria calda dall'interno e te la buttano fuori, ma insomma, cioè, non pretendere diciamo chissà quanto, perché le pale cosa succede? I fili ti muovono l'aria stesso che è all'interno, che senti quella specie di fresco, perché il movimento dell'aria è quello lì. Poi ho capito questo, l'avevo già preso in considerazione, ma mi serve che giri l'aria all'interno della, ma io ho sempre la finestra aperta la sera perché non c'è un filo d'aria, a differenza di ieri notte che si è messo a quest'ora un bel maestralotto, si stava bene, invece stasera non c'è un filo d'aria, capito? Quindi ho sempre la finestra aperta, già l'hai vista per le volte che viene sempre aperta, per mille motivi, capito? Però adesso vediamo un po', io penso sia una cosa bellina, anche qua ci sta bene, a mettere quella palaria con le pale, se riesco a trovarla ad un prezzo ecco, sono anche molto bello e non ne ho trovato, di solito qualcuno c'era anche l'anno scorso, di questo periodo invece non ne ho trovato, se no l'avrei preso, l'avrei detto bello pulito, se era da verniciare mi attaccavo le pale, le portavo da Giulio, me le facevo verniciare, non c'erano problemi, e invece non ne ho trovato, vabbè, già ci sta bene anche così, nonostante sono tutto fasciato, non è un caldo, è la verità, però l'aria deve girare. Ok, va bene. Antonio. Da 20 euro costa quelle pane, mi da ben com'è? Quelle da camera classe A e consuma pochissimo. Aspetta che è entrato molto pompa, cosa hai detto come 20 euro? E dove le vite? Da Bricome 20 euro le pale costano, la palaglia con le pale 20 euro, sono detto 20 euro 99 centesimi in offerta. Senti, mi voglio, me lo dici, domani mattina come esco all'ospedale vado e me la compro. 20 euro, ma quella classica bianca? No, no, non è bianca, di color marroncino, quindi si riguarda al colore che c'hai in casa, non ti preoccupare. Ha pensato una cazzata. Che quanto ne sai, domani mattina alle 8 all'ospedale, come esco all'ospedale, anche vado a trovare anche Gio Maria, ve lo saluto, tanto lì in ortopedia al sesto piano dovevo andare io, stanza 607, vado a trovarlo poverino, lo fa piacere, come esco all'ospedale vado al bricco, quello di Città Mercato, Antonio. No, no, poi come quello che c'è a Lipunti, allora li ho messo a Lipunti in pratica, vai lì e non so lì. Cazzo, non ci ho pensato, non c'è, lì come quello grande, non ci ho pensato, lì lo sai, me l'ho immaginato che lì c'era qualche offerta, perché mi sono preso la sedia nuova qua della sala radio, e a Città Mercato costava 79,90 e lì l'ho presa a 59 euro, la stessa sedia, con le girevoli, sale, scendi, con la spalliera che si muove, a tipo bimbon, capito? A tipo segaiolo, mi capito? E quindi l'ho pagata molto molto meno. Non ci ho pensato a guardare lì. Domani mattina, Antonè, grazie dell'info, domani mattina vado subito e mira il boom pareggio. Ascolta, ma a piazzarla cosa c'è? Un tubo visto io che la tiene ferma, dove si aggancia quello? C'è un tubicino, poi c'è una gaffa dove vanno le sedie di tassino, non ha cazzato a fare. E allora faccio vedere come si piazza, l'ho pensato uno da poco, a Daniele, quindi io te la piazzo e poi non facciamo altro per fargli dei funi e si installa, capito? Ascolta, io c'ho il gancio dove c'è l'ampadario attaccato. vuole, intanto poi c'è un affare sotto che blocca tutto, e si muove per l'affare, lui si muove molto la manetta, cioè, è tranquillo come cosa. Se compra quello poi te lo faccio vedere io, te la piazzo io, capito? Quindi, poi tu vai a fare altro che fa la sera, tu metti il telefono. Speriamo non mi ripari in capo, cazzo, già mi va giù la spalla, il fasciato non mi faccia buco a muovere un buco, quanto. Sono di quelle classe A, quelle che consumano poco. Ah, il pinguino che hai ricevuto, quello che c'è attaccato il tubo nella finestra. E anche quello, ma... Guarda, io i gattaschi li ho lasciati, ne ho lasciato due di condizionatori, perché quando l'avevo fatta con l'imbecille mi si è attaccato, là, c'è mai là, e qui e là, e qui mi li ho lasciati, sono quei due condizionatori, li devo attaccare. E metterne uno piccolino qua, perché ce ne avevo uno da 9, piccolo, e andava benissimo qua al minimo, capito? Solo a freddo, ripeto, solo a freddo, perché a caldo a me non mi interessa, c'è il riscaldamento e c'è un caldo da morire qua d'inverno, e quindi solo a freddo, capito? Li ho lasciati. Quando poi ho dato la casa definitivamente, mi sembrava brutto toglierli, esatto, perché quando sono venuti a vederla c'erano, ce n'è uno nel salone e un altro nella camera da letto. Invece quella mia figlia non ne ha voluto perché dice che fa male, e allora non ne hanno messo. Li ho lasciati, capito? Se no ce l'avrei avuto qua. Però ho il problema è che questa stanza è molto fresca. È abbastanza fresca e quindi non mi sono preoccupato. Già l'anno scorso ho visto che si stava benissimo perché è bassa, capito? E si stava benissimo, però adesso vediamo. Stavo, ma se c'è questa cosa che ha detto Antonello, domani mattina vengo un pareggio, me la compro, non la faccio piacere a Antonello, capito? E così a posto. Perché così arieggia anche sulle radio, sai, c'è sempre quella brezza di fresco, di aria fredda, e va bene. Tanto io più o meno sono sempre sotto, perlomeno quando sono in questa postazione qua con gli acchetti sono sotto, mentre quando sono dall'altra parte con i baracchini sono un po' di lato, quindi non è che mi tocca più di tanto, dai. Solo che per uno c'ha le ruote, lo puoi portare sopra il capo, lo puoi, te lo puoi portare, capito? Se attacchi il tubo, lo metti fuori e via, è proprio di quelli trasportabili, proprio di quelli maneggevoli, per tutto. Magari più là ti può interessare, non costa neanche tanto. E quello della De Longhi stai dicendo tu? Un altro tipo, No, un'altra marca, non è De Longhi, no. Non lo faccio nella De Longhi, no. È un quei prezzi più buoni, visto che sono di a Conforama. A 9.000 più di a fare via. Però è maneggevole, lo trasporti dopo e voi, dove ti pare ti piace, in qualsiasi stanza. E non ha... c'è anche la maneggia per prenderla, non ha nessun problema. E allora è di lusso. Vabbè, di solito lo faceva la De Longhi, che facevano anche la pubblicità, Pinguino De Longhi. Però ci sono anche altre marche che vanno sicuramente molto bene, capite? Vanno sicuramente molto bene. Aspetta, adesso c'è Fabrizio in ascolto. Fabrizio, sì, in ascolto. Non vuoi farlo. Classe A, funziona molto bene, prestano. Non porti dove vuoi tu, lo porti in qualsiasi stanza. Non è nessun problema, non è. nome Trump, molto ridotto, un po' ridotto, e va bene, dai. Diciamo che è fresca. Più che altro si elimini il problema di fare cose, un po' di carriera. Allora, guarda, quello che avevo io non era molto grande, non era molto grande, sì, c'aveva le ruote. Dicevo io erano condizionatori proprio da muro, capito, con la macchina fuori esterna nel poggiolo, mi avevano fatto un capolavoro, l'ho chiamato Reline, il portatore poi è il genero di mio fratello, sposato con uno dei figli, è sposato con la mia nipote, quindi mi ha fatto un prezzaccio, 400 euro montato, da 9.000. Era un inverter, era una camionata, infatti lo dovevo togliere, infatti mia moglie si è incazzata, lo dovevo togliere, capito? No, mi hanno montato tutto, fatta tutta la linea sotto canale, non si vedeva niente perché poi rimaneva dietro l'armadio, abbiamo voluto spostare l'armadio eccetera, dal salone attraversava tutta la camera da letto e poi la macchina era fuori nel poggiolo. Avevamo fatto veramente un capolavoro, però non mi sembrava giusto toglierlo, l'ho lasciato, vabbè, pazienza. Però questa cosa della pala è molto interessante, a parte il fatto che ci sta bene qua, perché questa è una, anche se ordinata, è sempre una sala radio, una cosa tutto così, da ufficio, e quindi ci sta benissimo, capito? Che voce in pelle, quello mi si attacca in tutta la ciampa del muro che c'è Andrea, tu. Alzati un po', alzati. Mi prendo l'altra che mi stoffa, questa è bella, questa è molto bella, grande, poi si piega proprio, sta in un bel comodo, un bel. Però dai, tipo pelle, cazzo adesso, ma intanto non ci mi si attacca tutti in guscia. Alla gabbia, non ho detto un asciugamano, o mi faccio un rivestimento così temporaneo per l'estate, va bene, se non mi prendo l'altra che è in stoffa, non si attacca. Antonello motopompa, ci sei? Sarò richiamato dopo la bella assistenza alla mamma, via. Così, vado a provare anche il burro e Antonello nel Calvario, grazie. Va bene, bisogna superarle anche con le cose, troppo. Se tua madre non ha quella essere così. Sì, già ci sono passato anche io, quanto sono stato un bel po' io e mia suocera a casa, capito? Quando non mi attasco e quindi già lo so cosa vuol dire. Purtroppo, quando è morto mio socio, lui si è lasciato un po' andare e allora ci abbiamo portato a casa. Capito? E poi, siccome la cosa stava diventando per noi un po' difficoltosa perché non siamo né infermieri né niente, allora abbiamo lasciato la casa di riposo e poi da lì è. Si è finita e quindi lo so cosa vuol dire. Il sistema anziana è una cosa molto difficoltosa, no, non c'è niente da dire, capito? Non c'è niente da dire, vabbè, e già lui va. No, non c'era nessuna parte, Fabrizio, stavo girando a destra, a sinistra, sotto e a manca. Non ci deve essere proprio in radio, avrei sdraiato nel divano. Fabrizio, avessi trovato queste spugnette? Io non sono riuscito, cioè le ho viste una volta, poi due, ma non metto più dove le ho viste, non mi ricordo dove le ho viste, e quindi non so, vabbè. Io adesso una l'ho recuperata da cuffiettina per coprire il microfonino che ci è attaccato alla cuffia, abbastanza grande, a palla. L'ho tolta, l'ho messa nell'M600. Ma sentito l'M600, c'è bene, no? No, vuole che c'è bene. Però è una donna abbastanza forte, dai, non ha subito di cose, però se è sempre capata. Non si trova che è la mamma di Piergao? Ma che non lo sai che mi sta con noi? No, non lo so per quanto, ma anziana è? Ma tante, sa. Minchia, Dio la mantenga, 90 anni sono tanti, va bene, va bene. Già ci hanno fatto la loro vita, vedi, e così va bene, perché quando uno viene a mancare, dice, certo, c'era 95 anni però, quindi la sua vita ce l'ha fatta, ce l'ha goduta, ci ha visto grandi, ci ha visto sposati, eccetera. Brutto è quando ti viene a mancare un genitore, ha 60 anni, tu lo sai quanti anni aveva mio padre quando è morto, tu? Ma vedete, era giovanissimo. Aveva 30 anni mio padre, hai capito? Aveva 30 anni, avevo 3 mesi. 32 anni avevo, io ho 3 mesi, non l'ho conosciuto mio padre, capito? E a quell'età mio padre era, non dico uno dei più grandi, però a poco è sicuramente il più grande imprenditore. C'era 32 anni, capito? Dove Bugia era dipendente di mio padre, perché mio padre in quegli anni aveva un negozio di 8 ricambi, grandissimo, Polo Torres, e due officine, una per mezzi industriali e una per macchine, capito? Il concessionario per tutta la Sardegna della Michelin e della Pirelli. Quindi, vedi tu, c'aveva 32 anni però, capito? Quindi, se ci fosse stato lui oggi, non credo che sia stato dipendente di nessuno, questo non c'è un vero dubbio, però dico che aveva 32 anni. E quando prima di mancare un genitore così, cazzo, il discorso cambia. Quando uno invece ha 95 anni, quindi la vita se l'ha goduta, ha visto sistemati tutti, nipoti, pronipoti, figli, eccetera, è anche una passione, no? A dire cazzo. Mamma è morta, però aveva 95 anni, ce l'ha goduta la vita. Diverso quando uno vuole giovane. Ma perché non ha continuato tua madre a... Se non avesse fatto qualcosa per continuare, no? Ma faceva così. E chi metteva? Chi metteva? Io ho 3 mesi che ero morto mio padre. La più grande è che mia sorella aveva 9 anni. E cosa metti? A chi metti? Lì mia madre se ne è toccato veramente le maniche, su questo non ci sono dubbi, perché in quegli anni vera non vera, c'erano un bei soldi, poi erano tra 60. Mia madre oggi come oggi sta bene ugualmente, perché c'ha case, c'ha lo so, la proposta, ma anche l'alghero. Sta benissimo, grazie a Dio, non la manca niente. Tu immaginati che mia madre si è risposata che aveva 60 anni, capite? Si è risposata che aveva 60 anni, con una persona di casa che noi ci ha visto crescere, che io, quello dico che non è, io non ci sono mai andato d'accordo, non mi interessa, io che padre ne ho avuto uno solo, quindi, però sono contentissimo che il marito di mia madre, proprio marito, non convivente, non compagno, marito, perché sono sposati, e si godono la vecchiaia assieme. Lui era un funzionario dell'ENI che è mai sposato, zittello, quindi è in pensione, ha una buona pensione, mia madre è dipendente statale, perché quando è morto mio padre, allora in quegli anni si davano anche questi lavoro alle vedove, oggi invece manco al figlio lo vanno, solo alle vedove. quindi è entrata la SIP, perciò ha dovuto prendere tutte le attività, attrezzature, balle varie e basta, ci sarà l'attività. Tutto lì è tutto. Certo che se mi trovo io con mio fratello Grandi, allora il discorso cambiava. Allora il discorso si poteva portare tranquillamente avanti senza nessun problema. Sono rientrato. Certo, avevo qualche domanda, c'era tutto posto. Ah, tutto nostro, come sì, Antonio, come attività commerciale mi ha lasciato più niente. C'ha degli appartamenti e va bene così, quando lei non ci sarà più, io la mia casa ce l'ho, quindi non ho necessità di altri appartamenti perché oggi mi devono dare niente. Quindi io mi tengo il mio, però chiaramente si farà un accumulo di tutti i beni, si farà un accumulo di tutto quello che lei ha accumulato e andrà diviso per i figli, questo sì. Quindi lo faremo in parti uguali però i soldi, cosa ne fai della patana? Oh, immagina che ogni anno mi ha sempre fatto un culo, mi ha fatto la senza per battuto le balle. Le mie sorelle ci vanno solo a godersi solo all'Alghero, a una casa allucinante che poi a fianco c'è anche mia sorella che ci abita a Fertilia. All'Alghero, lì a Punta Negra, di Fertilia, una casa allucinante, nessuno fa mai niente, a me ogni anno mi tocca fare il parziale, mi tocca fare le finestre, mi tocca tagliare l'erba, poi il giardino, fare quello e fare quell'altro, cazzo gli altri andano e si raccordini. Quindi io, è già un paio d'anni, che non faccio più un cazzo, non mi interessa niente, facciamo quello che voglio. Perché a un certo punto non è che sono un bollo, perché sono più piccolo, sono capotavolo di famiglia. Tu vai a goderti i soldi e allora vai e te la sistemi e te la metti a posto. Che tu vuoi da me? Me la puta sei. Capito? Tanto, quindi non voglio assolutamente nulla. A me dividano tutto, vendono tutto e mi togliere la pila. A me interessa la pila. Vai anche a me. È una cosa giusta, non conviene più avere niente di casa, vedere tutto imbarcato quando paghi l'IMU. Adesso avrei una casa in più, ti crepa lì. E io perché me ne sono disfatto di Via Pascoli. C'è un garage e basta, capito? C'è un garage e basta, e boh, che me lo sono affittato. Dopo il tempo in tempo mi giocare vito, capito? Se no, era un casino. È un casino, adesso non te lo sai, l'investimento lo sto facendo qua su, ma quella è un'altra cosa perché fa parte del condominio, è contattato diversamente, quindi manco mi tocca, capito? Devo fare un cambio d'uso che ho già fatto, ma è una cosa che tutti sono verticati. Però peraltro no, me ne affutti nulla, sto bene così, me ne sono uscito dai casini, non ci voglio più entrare. No, vai. Se un bagarra vai a casa, tanto te ne mangia le balle, non ti paga, te la distrugge e ogni mese capolino a medicare l'affitto. Ma non mi dici la cura, io fuori dai coglioni, vai a cagare e vai a prendere per il culo altre persone. Fatta amico, capito? Mi ha volato perché mi ha volato lo sfratto, ha saputo che me ne ero andato, mi ha fatto due palle quante il culo dell'asino, per cui che cosa? Per fare un anno senza prendere neanche un soldo, ma non vai a cagare. E invece ogni mese c'era un problema, capito? Ogni mese c'era un problema, alla fine non gli ho detto niente, ho messo tutto in mano alla Tecnocasa, in giro di... ma due mesi ci sono passati, due mesi, c'era la fila, ma tu devi avere quell'appartamento, Gianni mi l'ha visto, l'avevo appena rifatto, è uscito adesso, ma sono disfatto, mi hanno messo l'impegno qua a casa, mi fa benissimo, non ho problemi, e non me ne fotte un minuto. Ogni mese mi veniva la disperazione, che lo telefonavo, lo facevo, ma non ho mai dovuto comunicare di me, ma vai a cagare, fatto tutto fuori con gli uomini. Così è Antonio, così è. Dai, dai, e tu lo stesso, a te ti toccherà afferrarti lì. E al zio, oiaia, cioè è arrivato il vento, è ora adesso, cioè sta arrivando il maestrale piccolo, un pochettino, l'hai notato? Sì, sentivo questo abbretto dalla finestra, proprio so forse il... la ventilazione, io c'ho un ventilatore a piantone che è talmente silenzioso che manco lo sento, però non vedo muoversi. E però vedo, ma mi è girato dall'altra parte la ventilazione, vedo che arriva aria anche dalla finestra, quindi ottimo, ottimo. Va bene, va bene. E usci, non c'è niente da fare. A volte conviene qua. Il problema io, per me non sussiste perché io di figlia ne ho una, quindi tutto ciò che lascio nel mio piccolo è tutta roba sua, non serve bisticciare con nessuno, ma io con i miei fratelli, grazie a Dio, non ho mai avuto un problema, i fratelli e mie sorelle, quindi spero che non ce ne siano in più avanti, quando non ci sarà più mia madre, però la decisione è già stata presa, io non voglio niente assolutamente. Se qualcuno vuole acquistare, può acquistare, a me l'importante me lo viene la pia, la mia parte, e non voglio né una lira in più né una lira in meno, uguale agli altri, e poi vedrò io che cosa farne di quello che mi spetta. Ma no, non prenderò mai più niente, mai più niente, anche questa, questa io praticamente è toccata a mia moglie, però io ho dovuto dare la parte a mio cognato, quindi ho preso una parte e ho dato l'altra, qualcosa è avanzata, ma non è che sia avanzato tanto, capito? Ma per non avere problemi, quanto ti aspetta a te? 50, eccoli qua, pronti, togliti dai coglioni, in modo che sia mia e non devo dare conto a nessuno, tanto me, capito? Perché poi, ma quella te l'ho lasciata io, no, io ho comprato, prima da mia moglie e da mio cognato, in atto di donazione, di loro due, e poi comprato a nome mio, capito? Esattamente l'atto che è fatto a nome mio. E io, in atto di successione, l'ho già messa negli atti notarili intestataria. E io già gli do, tanto ne hai una, ti conviene farla là, così non hai problemi, di fare un radio, non ti tocca di nulla, capito? È un casino, la questione è sulle... qui siccome papà non ha fatto il testamento, è stato meno mia madre, quindi se tocca di dirci delle cose, in pratica lui deve dare un nome a quello deve dare un nome a me, e qui se lo avete d'accordo, ognuno dimette se prende la roba sua e boh, tutto lo si finisce lì. Adesso boh, vedremo la... è un venerdì luterace, che a me non me ne porto proprio niente, quello che c'ho qua sotto. E la campagna. Ho fatto venuti con le due cose, boh, io sono tranquillo. Più se riesco a essere fortunato per quella storia, io non mi metto più problemi. Adesso vediamo un pochettino. Guarda, se riesco a... vediamo un pochettino con questa mansarda che condizioni ero, dove abitavo, cioè dove stavo meglio come laboratorio, non è quanto ne vuole, adesso vediamo un po', ho dell'appartamento. Vediamo un pochettino, mi metto che quel che vale molto di meno di 200 milioni, quindi, e allora parati in lire. Adesso vediamo quanto ne vuole, lui dimmi, vediamo cosa può fare questo. Anche perché lì il condominio è 120 euro e qualcosa, invece qui sono 50. E capito? Se aveva la candela me ne vado di là. E allora lì la faccio schiattare un dirigente, cazzo. Lì è bello quella zona, mi piace da morire a quel punto lì. Una bella mantova lì sopra, con 3 metri di palo, e c'è anche per i porci. Sì, io che avessi. Anche dove sì, Antonè, è che la tua facevi tu. È un bellissimo punto, una bella zona, è poco verde, avete praticamente mezzo alla strada. Qua c'è molto più verde, tutto chiuso, e appunto è molto molto alto anche questo, va bene. Però di là ci divertivamo, mi ricordo che di là certo ci divertivamo un bel. E vabbè. E un conto, se c'è da fare, se c'è da fare farlo, e come hanno detto a me, mio fratello dice, ma mia sorella dice, perché non vieni lì e te ne torni a Porto Torre, se ti prendi la casa di mamma, cioè c'è un terrazzo lì, vista sul porto, praticamente sullo Scoglio Lungo, che è fenomenale, mamma metà al centro storico, ma è fenomenale quella casa singola, poi capito, sono tre piani, sotto affittato a un dentista, sopra c'è tutto il piano giorno e canotte, sono due appartamenti, sopra c'è una sala abitabile dove loro stanno sempre lì, molto bella, e quindi sarebbe anche quella una cosa, però non me la sento, adesso non me la sento, se non è vero avrei voluto cambiare aria, e lì già c'è una sola lacrima, un bel di mettere in gallo, molto bella, lì già avevo l'antenna che a poco usciva forte, abbracciava molto bene sia Sassari, Alghero, tutte le parti, la zona del mare, la prima valigiata di Tedere Manzano, con la mamma e Francesco Briscolone, conosciuto la gente a Francesco Briscolone, con i balisi. Stasera al CAF, ho fatto quelle foglie mise, che mi hanno chiesto quella, adesso devo fare lunedì l'avvocato, prendere la qualifica che c'avevo nel foglio di USAI in pratica, quarto livello, presenta di quella, poi diploma e fare il curriculum, eccetera, eccetera. Poi casino, l'importante è avere fortuna. Se sono fortunato, speriamo la porta buona, cioè, almeno sono tranquillo, dormo, mi posso occupare per dire un bel baracchino, un bel coso, piano piano, mi comprerò qualcosa, capito? Almeno deve essere una macchina di 150, ma se ne è visto, aspettate, non mi fa bello. Tranquillamente all'abitarci senza nessun problema, figurati, proprio Io per me conosco tutte le vie, conosco anche gente, ci sono tutti i miei, io ho due sorelle, la mia Luciava, sono tutti i fratelli di babbo, di mamma, capito, tutti i miei parenti, quindi è un sacco di miei nipoti, perciò andrei a fare un cambio anche lì senza nessun problema, però rimane il fatto che Porto Torres è la mia città natale, quindi mi piacerebbe tornarci fra qualche anno un po' più grandetto, insomma, tutto lì, però ti ripeto, è solo un accenno a quello che ti ho già spiegato, poi se va in porto non mi dispiace comunque, sinceramente. Molto pompa, Bisese. Sì, sono entrato adesso, guarda, mi sto stressando, gira gira, faccio due di contratto e mi danno le nocche, così si attacca a Bisese, si attacca. C'è la rottura di palle che ha finito 5 minuti, ma non porta il culo lui invece chiamare a te. Ah, lo fa un cazzo, non hai capito, lo fa nulla, è solo buona rompa di coglioni, buh. Sto dicendo che, sì, vuole dire che le cose cambiano. Come il telefono, mi vado, vedo come stanno le cose, metto l'accordo con quello là, io mi affitto qui e me ne vado scendo giù a abitare di là. E non mi ha fatto nulla, faccio 42 anni. E lui c'era in culo, c'era. Ma così veramente una vergogna, te ne permetti di dirtelo, però. Ne abbiamo già parlato, una vergogna. Cazzo sei in Kiwi, canale puoi alzare un muro e assistere a tua madre, cazzo. Ma è possibile di 5 minuti per chiamare a me e rompermi le palle? Sì, stiamo votando lo stesso, a me o a Giovanna, o Giovanna o a me, il discorso è quello, capito? Grazie, diventa qua, sta diventando una cosa, mi sta prendendo un risalimento nervoso, mi sta diventando. Età. Oggi mi già visto, sono sceso a piedi, sono andato a piedi, già l'ho visto Antonio. Ma sono andato a casa, c'avevo la lingua fuori, mi sono pigliato una fila, me la sono bevuta piano perché mi stavo scendendo, la verità. Non mi è successa una cosa del genere. Si è detto uno stesso questa cosa, guarda. Adesso vediamo di mattina, parlo con quello, secondo me me vado lì, se mi dava la massalda, abitare 200 euro e quello mi fa il contratto, sono a posto io. Lui ce l'ha in culo, lo dico io. Mamma mia. Dove abitavo prima, lì già ti faccio schiattare già, e sei piatto l'antenna lì, te lo sto dicendo, facevo biondo a coso io, tanto tempo fa, a Salvino, luogo sono nuovo, a Pozzo Maggiore, e altre parte lo facevo anche a coso, a, come si chiama quello di Vittori, che parlava con la fidanzata, lo sono nuovo, tranquillo, beato, poi parlavo con Bosa, con Nuoro, con Villacido parlavo tutti i giorni, figurati, e con la Spagna. Se piatto davanti a Marito, ti sto dicendo che sono proprio in una cosa diversa, altro che no, che è... con coso proprio attaccata al bar, figurati tu, è una bella zona quella, guarda, è proprio, c'è un canalone lì che la cosa non crede, è bella, bella veramente quella zona, e mi è sempre piaciuta, mi è dispiaciuto, guarda, quando mi sono andato da quella casa, anche perché mi ho passato casini per l'escoposta, però ho avuto anche soddisfazioni, nel senso che parlavo con tutto il centro Sardegna, Nuoro, altro Villacido, per dire, arrivavo tranquillamente al Tempio, però Vabbè, pronto, se arrivavo basso, perché se arrivavo sempre Santiago 7, 8, ma mai più di 9, la verità, con 100 watt. Però mi è sempre piaciuto con la zona, cioè salendo qui, in pratica, sono più alto, però c'è la collina di coso che mi tappa, capito? Lì è il punto strategico proprio, figurati. Cos'è che vuoi vicino oggi? Sì, più vicino di me, proprio attaccato, siete attaccati, il Fabrizio c'è attaccato lì. Lo so che c'è Fabrizio vicino, c'è Fabrizio, c'è... Anzi, prima di Fabrizio c'è cosa? Antonio Falchetto per esattezza, siamo vicini, proprio di fronte siamo. C'è Ossi, figurati, che alla Madonnina di volo 30 lì. Ti ricordo che mi mettevo l'apportante quando avevo fatto servizio radio a Ussi, lo so, una cavolgera, gli prendeva l'apportante a cosa, non riuscivano a modulare uno con l'altro, la vitraia, sono spiano, morti no. Allora, 30 itti da qua, ma ho tanto tre parti di voci, usi, litisi, itti, non c'è problema da qua. Come sempre, no? In quei tempi avevo anche il 922, il 922, quindi ci invasivano le battaglie delle piccole mandrano, mentre arrivano i camionisti, mi faravano la giaccaggia, e dove sei andato tu? E te chi sei? Io sono uno che non ti fa più parlare, vai, girami le balle. A passare la giaccaggia io arrivavo fondo scala, 930, tondo tondo, poi era... Allora che arrivavo 9.20, una cosa del genere, 9.10, 9.20 sempre il segnale alla programma di cosa. Figurati, era un punto veramente bello, guarda. Chiaro Monti, parlavo con Tempio, a tempo arrivavo 9.10 a cosa che parlava lì spesso quando andava l'estate. Se mi ricordo un attimo con lui Sassari. E quindi figurati, è un bel punto quello, guarda. Anzi, il punto migliore sarebbe stato proprio nella palazzina che c'è prima, dove sono io, quella più alta, dove abitava Roberto, mi pare si chiamava, quella sì che è alta, da 8 piani, avevo un appartamento in chi, con un'antenna, una mantova, e mi massacrava come nulla a me, anche dove a fondo scala, figurati, da lì sopra. Però era un bel punto, mi è sempre piaciuta a me quella via, vabbè ci avevo tutto, là, e ci ripetivamo, ci vedevamo di quanti di alba, sembrava in casa, sembrava, ci diceva ma per dire che aveva anche fino ai 10, gli diceva qualcuno ci perdo, come ti dico, è capitato una notte con Carlo, che ha aperto il panettone, ha aperto lo sumante, dice, per voi questo è alto, te lo ricordi? Sì, vabbè, stai parlando Castellavini che Antonio Rio. 26-27 anni, ovvero. Non c'ero neanche 30. Lei era piccola, mi ricordo c'era 105 anni, mi ricordo. Comunque era piccola, perché io ero già qua, ero un piano, e quindi ero già qua, e c'avevo la radio nella cameretta di Varia, e quindi era piccolina, e poi quando ho diventata grande mi ha sfrattato, e allora me l'ho messa da un'altra parte, adesso già non mi sfratta più nessuno qua, anche quella è stata una scelta, tu, capito? La mia passione era quella di avere una stanza tutta mia e farci quello che voglio. Capito? Tutto lì. Vabbè. Come si sente Giuseppe stasera? Se non andato a pescare con Gianni, che la mazza mi rivaria. Il padre è probabile andato a pescare, mi si distrava. Sì, anche io l'ho più sentito, vabbè, l'ho visto stamattina e basta. E perché non l'ho più sentito? Vabbè, da una cosa all'altra oggi, guarda. Figura, adesso vogliate guardare in quelle parti della cimiteria si stava impianto l'antenna TV. Quelle sì che sono appartamenti, per 200 metri quadri di appartamento, ma poi vogliono 70.000 euro, 80.000 euro, insomma, non so esattamente la verità, però sono belli quegli appartamenti, ci puoi viaggiare in moto dentro. Grazie, ci siamo nel prossimo, non avete buon po'. ciao, che la prima volta ci sentiamo domani. Ciao, salutami a Gio Maria, mi raccomando, lui ti do un nuovo di là. Dimmi che, se tutto va bene, ci passa il limite domenica, ci passiamo ora. Andiamo tutti assieme, gli facciamo visita, domenica tanto non sto facendo nulla io. Ho a pranzo, a cena, come vuole lui. Tanto non è che ci sia problemi. Possiamo andare per dire 6:30, non succede nulla. Chi ha fatto entrare in ortopedia. E poi c'è un'amica mia lì che ci lavora con l'infermiera. Ho fatto Antone, l'ho già detto poco fa. Domani le porto i saluti di tutti, dai. Tanto sono lì e non mi costa niente andare a trovarlo. Dai, un saluto e ci sentiamo domani, signori, statene bene. Antone, noi ci aggiorniamo domani, dai. Ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte, ciao. E allora salutamo anche la parte mia e mi dispiace ciò che è successo, dai, salutamelo. Ok, magari appena che posso, se ce la faccio, vado a trovare, non so se ho capito dove. Ciao, va. D'accordo, glielo dico, dai, ciao a tutti di nuovo, buonanotte. Io, ciao, ciao, buonanotte. Avanti, Anto. Dopo un po'. Dimmi, Anto. So che è bellino, va bene, cazzo, non mi dico con voi, tu anda, va bene. Oh, cosa mi lo sai, ma io. Che quanto costa quella ceccia? Non ti ho sentito? 120. Non è molto, visto, Non è molto, va bene. Parlando ora l'ho pagato 100 euro. Che io invece va bene lo stesso. È un bel apparecchio. Lavora bene, ho visto, è tranquillo. L'unico problema è che piccolino la cosa scalda parecchio, scalda. Quindi se si è dissipato vedietto, vuol dire che finale di pompano più di 10 watt, sta tranquillo. Perché Cazzarola è c'era un caso da crepare ed era al sole la macchina, hai capito? Era parcheggiata al sole, poi l'abbiamo presa, l'abbiamo consegnata e cosa, se no non è così calda. E non sai cosa ha fatto dentro la macchina, che sembra un cazzo da morire. Non le fa niente perché è fatto per resistere a temperature. E per quel motivo lì, se no non scatta l'apparecchio, vedi, questo io ce l'ho preso ancora. Io lo so, guarda che c'erano 35 gradi stasera, non sono sceso entrambi, quando sono entrato in trama c'erano 31 gradi, quando sono sceso c'erano 35, figurati tu. E quindi la voglia che l'apparecchiatura si lavora un bel male, scaldano parecchio. E per quel motivo lì, parlo ma cosa era anche potente, che sto capo la carrozzia della macchina si bruciava, che solo era maletta, non è proprio da cambiare l'apparecchio, a me non sta la mano, ma trovate comunque là. Infatti io di due, c'è da poco, c'è, oh, io. Normale. Cosa scatta? È normale, ma magari si può anche tirare. Io lo so, già l'ho visto, c'è il dissipatore, se vogliamo che puoi portare a più watt. Quindi figurati tu. Vabbè, funziona bene. Un apparecchio, sai, c'è quattro colori diversi, mi sembra del display. Roger Beep, va bene, dai. Ciao, voglia che va bene. Va bene, allora. Adesso me ne posso correre anch'io, sono 11:30. Sentiamo al limite ogni mattina, là, se ci sia barchino. Quando rientro già ci sentiamo. L'ultima cosa, hai visto il campo, tipo internet, non è che. Buona giornata, fatto male, dai.